No. Ho due citazioni finali. La prima è che trovate, è un'estate incredibile dove purtroppo il numero delle donne, noi ci abbiamo dedicato una trasmissione, il numero delle donne uccise dagli uomini sono 9 nell'ultimo mese, una vicenda incredibile. L'ultimo la racconta, la vicenda assurda, Carmine Festa, pagina 23 della Stampa. Addirittura l'ultimo killer, Domenico Iania, che ha ucciso Chiara Brandonisio, ebbene, non si erano mai visti. Avevano avuto una relazione virtuale su Facebook. Quando la donna ha deciso di troncarla, questo Domenico Iania ha preso il furgoncino, ha fatto mezza Italia e è andata a ucciderla a sprangate. Tutta l'Italia in auto per raggiungere la vittima mai vista. Una relazione virtuale solo, l'ha ammazzata a sprangate. A questo proposito il Corriere fa una cosa secondo me meritoria, perché si raccontano sempre dal punto di vista delle vittime. Grazia Maria Mottola invece intervista chi? Uno stalker, un persecutore, uno che ora ha avuto l'aiuto da parte dell'osservatorio sullo stalking, tra l'altro ve lo segnalo www.stalking.it. Nella mente dello stalker vivevo per ucciderla. Nome di fantasia Angelo, 60 anni, magazziniera a Milano, racconta di come era caduto proprio in questa spirale di amore e odio, o meglio solo odio, in cui l'unica fonte del mio dolore era la mia ex fidanzata e volevo ucciderla. Questo mi avrebbe reso libera. Ora, grazie a uno psicologo, ne sono uscito. È un bellissimo, bellissimo perché drammatico racconto. Nella mente dello stalker vivevo per ucciderla, sul Corriere a pagina 23. Alle 8:18 minuti, eccoci qua, nuovamente in diretta con Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Deborah, buongiorno. Buongiorno. Oggi Alessandro dico stop alle telefonate. Sì, non ti vedo tanto spaventato. No. Potresti evitare di farti un po' meglio gli affari tu a guardarmi un attimo. Ma ti guardo, ma che affari no. miei? No, non parlo di quelli dei tuoi ascoltatori, che spero anzi che ti chiamino nella prendo seconda appunti, parte di appunti. 24 mattino. Stamattina parliamo di quelle telefonate fastidiose, quelle dei call center pubblicitari che ci chiamano nelle ore più disparate della giornata, solitamente all'ora di pranzo. Io non faccio neanche in tempo nel pomeriggio ad inserire la chiave nella toppa della porta, che sembra che mi sentano, e trac, arriva la telefonata di qualcuno che vuole pubblicizzarmi qualcosa. Sì, esatto, ovviamente colpa mia che ho evidentemente rilasciato il mio numero di telefono da qualche parte. Poi daremo qualche anche istruzione di buonsenso ai nostri ascoltatori per non fare più questo. Però c'è il tema della nascita del cosiddetto registro di opposizione, una sorta di registro anti-telemarketing a cui potremo iscriverci nei prossimi mesi se non vorremmo più ricevere queste chiamate. Funzionerà? Stamattina sentiamo un ospite di Salvadanaio, già tornato ai nostri microfoni, già lo abbiamo già sentito in passato, sempre per affrontare questo argomento. Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, io non ho nessun dubbio sul fatto che questo registro funzionerà, ma mi chiedo soprattutto se ci sarà qualcuno che non vorrà iscriversi, perché questa prassi, Bolognini, non piace a nessuno, anche se poi va detto è un fenomeno che ha tante facce. Si tratta anche di un mondo popolato di migliaia di persone che lavorano, tanti giovani impiegati nei call center più disparati, ma sta telefonata all'ora di pranzo noi non la vogliamo più ricevere. Funzionerà questo registro di opposizione? Come ci potremo iscrivere? Beh, io credo e spero che funzioni, ovviamente. Devo dire che questo timore che lei esprime, cioè se funzionerà, chi non si iscriverà, chi avrà piacere di ricevere queste telefonate, porrà una sfida agli operatori. La sfida di essere più corretti, quindi di non chiamare per esempio all'ora di pranzo, di chiamare in orari normali, quindi per esempio dopo le 17, prima delle 19, di rispettare la volontà dell'utente, di non fare passi falsi, perché grazie a questo registro potrà essere effettivamente tracciata una violazione. Quindi io credo che funzionerà. Voglio ricordare a tutti che questo registro, che entra in funzione veramente, concretamente, tra circa 90 giorni, è un registro che si riferisce però solo ai numeri che noi abbiamo pubblicati sugli elenchi, quindi non si riferisce alle chiamate che noi riceviamo perché abbiamo dato il nostro numero in altre situazioni, solo ed esclusivamente alle chiamate che riceviamo perché il call center, perché l'operatore ha trovato il nostro numero sull'elenco telefonico. Questo deve essere chiaro. Certo, perché per l'altra circostanza che lei ha menzionato c'è evidentemente una sorta di consenso da parte nostra ad essere richiamati, quindi poi lì è un altro ambito a cui fare attenzione, poi ci arriviamo. Benissimo. Devo dire che con questo registro si introduce in Italia da un lato una libertà e dall'altro un diritto, uno strumento per tutelare i diritti. La libertà è una libertà di mercato, nel senso che si consente appunto senza un preventivo consenso agli operatori, alle aziende di chiamare chi ha il numero pubblicato sugli elenchi telefonici. Bolognini, chi gestirà questo registro? Dunque dovrebbe, in teoria lo gestisce il Ministero dello Sviluppo Economico, nella pratica il Ministero lo affiderà a un soggetto terzo. Si può immaginare che sia un consorzio di operatori o addirittura anche con consumatori o una fondazione. Ieri Repubblica scriveva: questa novità pone fine a 2 anni di Far West, durante il quale il governo, con il decreto mille proroghe, ha permesso alle aziende di telefonare agli utenti anche senza il loro consenso, una situazione che era finita anche sotto i riflettori della Commissione Europea, che aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione delle norme comunitarie sulla privacy. E a proposito delle regole sulla privacy, quindi concretamente come cambieranno, per dare qualche istruzione ai nostri ascoltatori? Beh, come stavo dicendo, se il mio numero è pubblicato sull'elenco, l'impresa sarà più libera di chiamarmi, mentre fino ad oggi non avrebbe potuto, anche se in questi ultimi 2 anni, come giustamente lei ricordava, c'era stato un periodo di Far West per quanto riguardava gli elenchi pubblicati fino a luglio 2005. Ma comunque adesso diventa più semplice chiamare gli utenti, quindi adesso gli utenti che stanno ascoltando saranno impauriti, diranno ma come? Però arriva questo registro, che è uno strumento certo, è uno strumento grazie al quale io posso registrarmi, posso iscrivermi in maniera veloce, gratuita, posso farlo online, posso farlo con una telefonata, posso farlo con una raccomandata, e nel momento in cui sono iscritto nessuno potrà mai più chiamarmi perché ha trovato il mio numero su un elenco per ragioni promozionali. A meno che invece, come faccio spesso io e qua mi reintroduco, non abbiamo, ribadisco, dato il consenso all'utilizzo del nostro numero per ricevere offerte commerciali. A me capita di fare qualche acquisto online e lì qualche volta, proprio nella procedura di inoltro dell'ordine per completare l'acquisto, c'è ad un certo punto la richiesta di compilazione del campo numero di telefono. Qualche società lo rende obbligatorio questa compilazione, Bolognini, altre no. Ecco, come facciamo a capire? Attenzione, nessuno può imporre il campo di consenso per la ricezione di comunicazioni promozionali. Possono imporre la richiesta del numero di telefono perché, per esempio, può servire per ragioni contrattuali, per eseguire il servizio richiesto, però nessuno ci può imporre di accettare comunicazioni pubblicitarie e neanche quando sottoscriviamo un contratto. Per cui massima attenzione, è meglio non fare le crocette a caso e leggere bene che cosa significano prima di mettere una firma in un contratto, perché lì stiamo aprendo una porta di casa nostra, stiamo facendo entrare in casa nostra qualcuno per proporci i suoi prodotti, non c'è nulla di male, però bisogna saperlo. Tenete però presente che al di là del momento iniziale, la legge riconosce a ciascuno di noi il diritto di opporsi in ogni momento a ulteriori comunicazioni di questo genere. Voi potete opporvi, dirlo, magari mandare un'email o un fax al soggetto che vi ha importunato, anche se voi avevate chiesto di non essere più chiamati, e se entro 15 giorni questo soggetto, questa impresa, non vi dà conferma della vostra cancellazione, oppure peggio, continua a chiamarvi, voi potete fare in maniera molto semplice un ricorso al garante. Benissimo. Al garante privacy. Allora, noi adesso dobbiamo salutarci, Bolognini, ma naturalmente l'appuntamento con lei è fissato a fra 3 mesi, quando questo registro di opposizione sarà attivo e quindi ci aiuterà a capire come va compilata la richiesta per non ricevere più queste azioni di marketing selvaggio, con tutto il rispetto, con tutte le realtà che ci lavorano dietro, però insomma il Far West è tutta un'altra cosa. Intanto buona giornata e grazie, a presto. A e buone ferie naturalmente, perché a questo punto credo che anche Luca Bolognini riposerà giustamente. Buona giornata. Alessandro. Eccoci qui. Carte di credito in vacanza. Non esageriamo. A Salvadanaio alle 12. Ciao. Ciao, e ovviamente alle 12, ma anche domattina, tu non vai in vacanza. Noi parliamo del nostro sondaggio di Roman Polanski, il regista, 77 anni, non è più tenuto agli arresti domiciliari in Svizzera. La vicenda risale al 77, la violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 13 anni. Gli Stati Uniti chiedevano l'estradizione, Polanski ha detto: io ho già pagato per quella pena, è libero. Che ne pensate? È giusto che sia libero, oppure, come qualcuno dice, la sua genialità, il suo genio artistico gli ha consegnato un lascia passare per scampare a un reato così odioso come lo stupro di una tredicenne? Alle 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Parliamo oggi nel nostro sondaggio della vicenda che vede protagonista il regista Roman Polanski. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? In un intervento pubblicato oggi dal Corriere della Sera di Bernard-Henri Lévy, intellettuale francese, grande amico di Polanski: caro Polanski, bentornato nel mondo dei vivi, finalmente ha trionfato la giustizia. Così scrive Bernard-Henri Lévy. Dunque, Roman Polanski da due giorni è tornato un uomo libero, era stato arrestato in Svizzera agli arresti domiciliari si trovava. La sua vicenda aveva fatto scalpore, divisa l'opinione pubblica, una vicenda che affonda le radici nel 77, dunque 33 anni fa, quando a Hollywood Polanski fece sesso con una tredicenne dopo averle fatto prendere un tranquillante, averla fatta bere un po' di champagne, una vicenda per la quale si era proclamato colpevole. Ha detto: c'è stato un accordo e io ho scontato la mia pena, che erano 42 giorni di carcere. In realtà per gli Stati Uniti 33 anni sono passati, ma uno stupro è uno stupro, e quindi Polanski andava estradato e doveva scontare la giustizia. Per la Svizzera ci sono stati problemi di domanda tecnici sulla richiesta di estradizione. Polanski è un uomo libero, vi chiediamo se sia secondo voi una decisione giusta oppure no. Bernard-Henri Lévy dice finalmente, mentre Eugene Robinson sul Washington Post, un intervento pubblicato anche questo tradotto oggi dal Corriere della Sera, dice: no, è sbagliato, e anzi boicotteremo tutti i film di Polanski finché non ci sarà giustizia. Come la pensate? Eccoci qua. Intanto voglio salutare due direttori. Umberto La Rocca, direttore del Secolo XIX, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Umberto La Rocca ieri ha messo in prima pagina la foto di Polanski con questo titolo: sei un genio, stupri una bambina e te la cavi. Saluto Piero Sansonetti, ben ritrovato Sansonetti, direttore degli Altri. Buongiorno. E voglio salutare un'attrice da tanti anni in Italia, americana, Sydney Rome, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Tra l'altro posso dire amica di Roman Polanski, amica, oltre sì, che attrice, che è stata diretta da Polanski nel 72 nel film Che. Sì. Che ne pensa lei di questa vicenda? È contenta come Bernard Lévy oppure... Beh, io sono ovviamente solidale a Roman, perché Roman è il mio pigmalione, praticamente mi ha fatto vivere il sogno della mia vita e mi ha dato una carriera, e non posso non essere solidale. Ho bambini di teenagers e perciò non posso nemmeno, non sono 100% per questa. Io penso che questa vincita, se si possa chiamare questa una vincita, non sono nemmeno tanto sicura, è proprio una manifestazione dell'intelligenza di Roman, in quanto ha potuto trovare un'uscita di questa cosa americana, perché non è totalmente libero, la giustizia non potrà più andare in America. E la giustizia americana lo cercherà sempre, o dirà che lo cercano sempre. Penso che ha avuto avvocati molto intelligenti e ha potuto lavorare bene nella Svizzera, e così lui in realtà non è libero. Non è libero, certo, non può andare negli Stati Uniti. Ricordiamo che quando vinse l'Oscar per Il Pianista non poté andare a ritirarlo, molto banalmente. No, ma sono tanti, quanti anni? Sono 33 anni che non sì, può andare più in America. No, certo, per lui è anche una perdita. Lei dice però, io sono molto amica, mi ha lanciato nel mondo del cinema, però lei è anche madre, per l'appunto. E allora sì, io... questi verbali, per esempio, sono trovabili su internet? Io non ho pensato. Io li ho letti. Ecco, io ho pensato. Pubblicati nel foglio. Perfetto, io ho pensato se allungo, se citarli oppure no. Poi ho deciso di no. Tanto li trovate su internet, i verbali di questa Samantha Gamer oggi, che racconta allora che cosa successe. Sì. Sono verbali raccapriccianti, cioè di rapporti anali, rapporti molto, molto, molto, sì, molto duri. Molto specifici. Però io, avendo bambine di quell'età, ci sono bambine e bambine, ci sono chi ci sta provocatrice, c'è chi anche magari ha una malattia del sesso, cioè certo che chiunque, anche se ha 19 o 20 anni, non dovrebbe mai toccare una bambina minorenne, anche se ha solo 20 anni, anche se il ragazzo ha solo 20 anni non deve toccare una bambina. Però oggi le bambine sono terribilmente provocatrici, è proprio a quell'età. E anche allora, dice, anche allora forse Hollywood era una vera... Ma Hollywood è sempre stato, sempre, le bambine, ma ci sono bambine e bambine, ci sono, non è che non colpevolizzo Roman, questo non è contro la legge toccare chiunque che è sotto 18 anni. E infatti lui se, contro la legge. Certo, lui infatti se lo faccia avrà dei problemi, anche se è provocato all'inverosimile. Però Roman non ha come si dice scuotato la sua penna. Sì, ha fatto 45 giorni di carcere. Però le chiedo, Sidney Rome, qualcuno dice il suo genio artistico gli ha concesso un lascia passare per l'impunità, no, per un reato così odioso. Ma questo è ridicolo, questa è una cosa per la stampa. Questo non c'entra niente, il suo genio artistico, con aver fatto un reato. Non c'entra niente. C'entra che è molto intelligente, ha delle conoscenze importanti, il mondo del cinema è fantasioso, per cui l'ha fatto uscire e partire, ed è fantasiosa altrettanto per girare la legge della Svizzera. Io veramente non sapevo come avrebbe potuto mai uscire senza riscuotere la sua pena in America. E l'hanno trovato una maniera che la Svizzera ha detto che non hanno i documenti per fare dal punto di vista tecnico. Detto, sì, no? Hanno trovato un punto di vista tecnico, come dire, c'è un problema nella richiesta di estradizione. Questo è il genio dell'artista. Ho capito il genio, però. Non che sia libero perché è artista genio. Il genio anche del suo avvocato. In ogni caso, rimanga con noi, Sidney Rome. Io, Umberto La Rocca, lei è stato appunto molto duro. Questo titolo, voglio ripetere, la foto di Roman Polanski, chi ieri avesse visto Il secolo XIX, a me era la segna stampa molto colpito. Sei un genio, stupri una bambina e te la cavi. Ha sentito Sidney Rome dire ci sono bambine e bambine, e anche a Hollywood era così. Per la legge non ci sono bambine e bambine, e non ci sono bambine e bambine per la legge né in Italia né a Hollywood, se no... se così fosse per la legge, probabilmente Polanski non sarebbe stato condannato. Il problema è, senza entrare tanto in particolari, che Polanski si può far difendere da bravissimi avvocati grazie ai suoi soldi, e soprattutto gode della solidarietà internazionale di intellettuali, attori, anche se la signora è molto ragionevole perché esprime poi i suoi dubbi in quanto madre, diciamo, però è difeso da tutta una serie di personaggi in quanto è un genio, e secondo me Polanski è un genio, nel senso che è un grandissimo regista. La domanda è sufficiente essere un grandissimo artista per sfuggire a una qualche forma di giustizia se si stupra una bambina? Allora io voglio fare semplicemente una provocazione. Che cosa sarebbe successo se le stesse cose che ha fatto Polanski, se avesse drogato una bambina di 13 anni, l'avesse portata a casa sua, ne avesse abusato in maniera brutale, e poi si fosse difeso con un'intervista che oggi ricorda qualcuno sui giornali, dicendo ma tutti hanno voglia in realtà di andare a letto con le bambine, con le ragazzine. Che sì. Cosa sarebbe successo se questo lo avesse fatto un politico italiano? Qualcuno ha fatto una provocazione a dire se l'avesse poi fatto un prete di sti tempi, cioè se venisse... o anche un sacerdote, ma lasciamo perdere i sacerdoti. Se oggi venisse fuori dalle intercettazioni che noi giornalisti propiniamo ogni giorno, venisse fuori che nel passato un membro di questo governo ha portato a casa una ragazzina, l'ha drogata, che cosa succederebbe? Tra l'altro, vorrei sapere soltanto se facendo un diverso ragionamento, se le stesse cose venissero fuori. Sì, c'è da dire che la vicenda, direttore, poi voglio andare anche a Sansonetti, la vicenda è sempre è nota, nel senso che ci fu un processo. Nel 77 Polanski si dichiarò colpevole di aver fatto sesso con una ragazzina di età inferiore a 18 anni che non era mia moglie, questo per la formula della legge. Ha detto sapevo che aveva 13 anni, cioè non ha negato nulla, e c'è stato anche un accordo per il quale Roman Polanski ha scontato 45 giorni di carcere. Finiti questi giorni, pare che il giudice che le aveva dato 45 giorni volesse cambiare idea, dicendo non è abbastanza quello che ha passato, e lui allora che cosa ha fatto? Nel timore che il giudice cambiasse idea, finiti questi 45 giorni di carcere, è andato, appunto, ha lasciato gli Stati Uniti. E lui ha detto, io quindi avevo fatto questo, ho sbagliato, sono stato colpevole, ho scontato questa pena che il giudice ha stabilito equa. Oggi la vittima di allora, Samantha Geimer, dice anche ieri al Los Angeles Times, basta con questa storia, per me è chiusa, è finita 33 anni fa, ha diritto a non è più un pericolo per nessuno, quindi io me la sono buttata alle spalle. Vorrei da Piero Sansonetti, che è stato un direttore che possiamo dire ha difeso Roman Polanski, posso dirla così, poi adesso articolerà Sansonetti lei, ma insomma è stato su posizioni più, posso dire, garantiste, più dire ma basta con questa storia, perché? Sì. E perché? Più simile a quella della vittima, diciamo. Mi pare che dica più o meno le stesse cose che dico io. Ma uno stupro non è uno stupro, di una ragazza. Io faccio due osservazioni. La prima è Umberto La Rocca dice che se fosse capitato a un politico italiano chissà che sarebbe successo. Allora questo già smonta l'idea che il vantaggio di Polanski è di essere famoso, perché allora non è questa la questione. Però io mi pongo una questione fondamentale, ragazzi, ma sono passati 33 anni. Non è che sia un fatto secondario, per quale ragione? Non ne faccio un fatto solo di buon senso, ma di principi. Se il carcere, la pena, la privazione della libertà sono uno strumento di prevenzione di ulteriori reati e di rieducazione, voi vedete bene che non c'è alcun motivo per arrestare Polanski. 45 giorni si è fatto però per una violenza in anni. No, io sto facendo un altro ragionamento. Dico 33 anni dopo. Dopo. Che senso ha per chi salirlo? Ha una certa età, diciamo, sa. Ecco, se io penso a cos'ero io 33 anni fa, non è che posso, che sono la stessa persona, no? Chiamare 33 anni dopo una persona a pagare per un reato, qualunque esso sia, adesso stiamo parlando di un reato sessuale, ma potrebbe essere qualunque altro reato, a mio giudizio è una pura follia ed è la pura espressione dell'idea che la giustizia e la pena sono vendetta, perché non c'è nessun'altra ragione per mettere in prigione Polanski oggi, non c'è una ragione di sicurezza, non c'è una ragione di repressione, non c'è una ragione di rieducazione, non c'è neanche una ragione di richiesta da parte della vittima che invece dice ma smettetela con questa roba qui, c'è solo una ragione di vendetta e quindi della concezione della pena come vendetta, e io aggiungo, credo anche di vendetta contro Polanski, perché in qualche modo il fatto che lui sia un grandissimo artista io non penso affatto che l'abbia avvantaggiato, perché non credo che nessuno al mondo, non penso che la polizia svizzera sia alla ricerca di molte altre persone americane che 33 anni fa hanno commesso un reato. Anzi, il fatto di essere non ce le vedo queste dice, il fatto svizzere. Di essere visibile lo ha come dire, lo ha inseguito questa macchia per il giro per il mondo, insomma. Lo ha inseguito anche perché in questi anni, diciamo, è cresciuta in genere nel mondo, diciamo, un'idea di di sessuofobia, adesso io non è che voglio dire, intendiamoci, perché se io introduco questa parola allora tutti mi dicono allora tu pensi che bisogna fare la pedofilia, allora sei un pedofilo, allora difendi i pedofili, non è questa la questione. Però diceva molto bene Sidney Rohn poco fa, badate che è difficile stabilire a 13 anni, a 14 anni, a 15 anni quale sia la personalità di una ragazza. Io ricordo che negli anni 70, sono un po' più giovane di Polanski ma non molto, negli anni 70 il rapporto della gioventù col sesso era molto diverso da quello di oggi. Io ricordo che a 14, 15, 16 anni la mia generazione faceva sesso in maniera assolutamente libera. Sì, però in questi verbali, io ripeto, non li posso e non li voglio leggere perché sono molto, molto, molto espliciti, ma su internet li trovate. Poi chissà, magari li pubblicheremo anche su internet, ma non è che li posso sbattere così in faccia agli ascoltatori che ci stanno ascoltando quest'ora. Cioè inizia così: si è avvicinato, mi ha baciato, gli dicevo no, allontanati, allontanati, ma avevo paura di lui perché in casa non c'era nessun altro, poi si è sdraiato e mi ha messo la bocca sulla puntini puntini, e da lì guardate che è sempre un crescendo di cose molto più esplicite e molto più dure. Cioè l'idea di una ragazzina che sì, era lì per fare delle foto perché magari sognava Hollywood, perché la mamma l'ha mandata lì a casa di Roman Polanski, o meglio era nella casa di Jack Nicholson, ma insomma cambia poco. Però poi c'era una ragazzina di 13 anni che ha detto no, fermati, voglio andare a casa, aveva preso un tranquillante, aveva bevuto champagne, non voleva, e invece ha subito del sesso. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, ci stiamo chiedendo se sia giusto per voi che Roman Polanski sia un uomo tornato libero. Devo dire il 79%, 79% su Radio 24 dice di no. Voglio andare a un'ascoltatrice. 800 24 00 24, Elisabetta da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Di che? Spero di riuscire a parlare perché sono abbastanza colpita da quello che ho sentito dire. E dei messaggi che stanno lanciando queste persone adesso, a prescindere dalla vicenda di Roman Polanski. Ma intanto la signora che ha pure figlia, mi chiedo come possa dire che le ragazzine di 13 anni, per carità, lasciamo pure perdere i modelli contemporanei per cui possono anche avere degli atteggiamenti provocanti, ma una donna di 13 anni, una ragazza, una bambina di 13 anni non è assolutamente consapevole della sua sessualità e non va assolutamente approfittato, anche se ha degli atteggiamenti provocanti. E quindi, cioè, io sono a contatto, mi chiedo se le persone che sanno abbiano mai conosciuto le donne o dei bambini o anche dei bambini maschi che hanno subito le violenze. Cioè lei è rimasta sconvolta da questa idea di dire c'è tredicenne, che dice Sidney Rohn. Un elenco online, vogliamo chi è, di chi si può approfittare, di chi no, in base alle foto e agli atteggiamenti che hanno le ragazzine. Ma stiamo scherzando? Vediamo su quel Sidney Rohn. Effettivamente questa immagine, questa idea, questa opinione che lei ha espresso ha scatenato, mi dicono anche al centralino, molti stanno chiamando, ma come, se c'è tredicenne, una ragazzina di 13 anni? No, ma io ho detto c'è tredicenne e nessuno, nemmeno a 19 o 20 anni, nessun maschio deve toccare una bambina di quell'età. Così ho detto, sì, non ho sì. detto se, no, no, non questo ho detto sì, nessuno giustifica, questo sì, però capisce che è un po' la difesa che molti hanno detto, cioè fondo quella ragazzina lì voleva fare cinema. Non aveva torto, ho detto che anche le bambine, tra l'altro la ragazza in questione non era vergine. Aveva già avuto rapporti sessuali e anche questo ha detto nel verbale. Questo è vero, ma che c'entra? Cioè? Come che c'entra? Beh, ma questo voglio dire. Vuol dire che lui non l'ha violentato, ha fatto atti sessuali con lei, ma no, lei. Non l'ha violentata. Non ha violentato una bambina, capito? Lei a 13 anni già aveva. Ma solo perché aveva avuto altri rapporti? Se diceva di no, se diceva di no, è una violenza. Ma 13 anni è? No, ma ho capito, ma allora le donne che vengono violentate, se siccome non sono vergini, non sono violentate? Perché, no, no, non dico quello, ma dico che era ovviamente una 13 anni. Cioè le dice, era una che sapeva stare al mondo, ecco, diciamo così, no? voleva fare cinema. Al mondo. Ma io non ho detto che bisogna toccare i 13 anni, non mi fraintendere, non girare la frittata. No, questo detto, lei non l'ha detto. Io ho detto però solo che ci sono ragazzini così, me lo raccontano tutti i miei amici giovani. Però io ho detto che non è assolutamente nessuno deve toccare una bambina. No, io capisco, lei vuol dire col fatto che non fosse vergine, col fatto che si è trovata da sola nella casa di Roman Polanski, un regista affermato, voleva fare cinema, era Hollywood. Io non la posso dire com'era lei veramente. Dico anche che lei dice basta con questa storia. Non giro la colpa a questa bambina. Dico che ci sono delle situazioni, dei momenti che io non lo so, io penso che deve essere il reato per chiunque che tocca una minorenne, sì. Chiunque che tocca una minorenne deve essere il reato, e noi stiamo discutendo alla larga questa situazione, io non c'ero. No, questo sì. Noi stiamo discutendo il tutto di una situazione del genere. Se vogliamo dire solo due parole, sì, è reato e lui deve essere punito, certo. Poi, direttore sì. La Rocca, la convince insomma questa spiegazione, cioè il contesto particolare, sì. Il fatto che la vittima effettivamente più volte abbia chiesto anche al pubblico ministero di dire basta, smettetela di perseguire Roman non Polanski. Non mi convince, mi preoccupa, ma io vorrei spiegare che io personalmente, e anche la linea del giornale che faccio, come peraltro Piero Sansonetti sa, io sono un garantista, però non significa che chi compie un reato non sconta alcuna pena, non è questo il garantismo significa che a qualcuno accusato di un reato vengono garantite tutte le condizioni per difendersi, una cosa molto diversa. La mia preoccupazione, siccome in questo momento sono ugualmente preoccupato clima di illegalità strisciante e diffusa che c'è in particolare nel nostro paese, io penso che la gente quando legge una cosa del genere, perché parliamoci chiaro, qui nessuno vuole condannare a 10 anni Polanski, si chiede semplicemente che la Svizzera lo estradi e che dopodiché gli sia comminata una pena da scontare in maniera X, come era peraltro nel passato. Però su questo, come dice Sansonetti, effettivamente questo è un punto, se la pena deve rieducare 33 anni dopo, cioè lo scandalo forse è stato che è stato lasciato libero per 33 anni, no? Che adesso dopo 33 sicuramente anni... Ma faccio osservare semplicemente a Piero che questa, fatta naturalmente le debitissime differenze, è l'argomentazione che, contro la quale noi ci siamo battuti per condannare i criminali nazisti che dicevano dopo 30 anni sono un altro uomo. È esattamente questa dal punto di vista giuridico, e tanto lui quanto io ci siamo in passato battuti ferocemente perché questa argomentazione non passasse. Il problema secondo me è un altro, e chiudo subito. Il problema è che non è che viene salvato oggi Polanski perché è famoso, viene salvato perché è un genio, che è una cosa diversa, sottilmente diversa. Quindi il genio e sregolatezza, si può accompagnare. Perché è un genio, perché è grato ed ha certa intelligenza di sinistra. E allora io dall'interno di quel mondo lì dico guardate che è una stupidaggine, perché in questo paese, soprattutto per le conseguenze che ha su quello che pensano i cittadini, quello che pensano gli italiani normali, è questo qui, siccome è un grande regista, non paga. Una persona normale avrebbe pagato. E io sono d'accordo con loro. E io tra l'altro devo chiedere anche Whoopi Goldberg, oggi ricorda Eugene Robinson sul Washington Post, che ricordiamo dice boicottiamo i film di Roman Polanski. Ha detto anche Whoopi Goldberg, l'attrice, ha suggerito l'idea l'anno scorso che insomma questo non sia stato veramente uno stupro, perché quella ragazzina voleva a fondo entrare nel mondo del cinema. Io su questa cosa non vi seguo, però vi ringrazio tutti, Sidney Rom, Piero Sansonetti, Umberto La Rocca, per essere intervenuti con noi, Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia come di consueto. E allora do la linea a Oscar Giannino, scriveteci bianco o nero e tra radio24.it a domattina.